Sì, allora direi che possiamo iniziare. Benvenuti a tutti quanti alla nostra serata consueta dell'incontro con l'autore e l'autrice, come in questo caso con Caterina Dezzini. E la serata di oggi è dedicata alle tesi di laurea. Praticamente ogni anno la biblioteca organizza il premio Claudio Augusta, premio per le tesi di laurea di interesse locale, e quindi abbiamo di solito una trentina mediamente di tesi che vengono raccolte durante l'anno. A dicembre vengono premiate, perché di fatto si tratta appunto di una raccolta, di una valutazione di questi lavori che servono alla biblioteca come documentazione e soprattutto per aggiornare anche la propria raccolta locale. Le tesi di solito appunto hanno un ottimo repertorio bibliografico che serve anche a noi come strumento di integrazione e di sviluppo delle collezioni, ma anche le stesse tesi sono un documento prezioso che non vengono acquisite attraverso i canali tradizionali commerciali delle librerie, ma devono per forza di cose essere così reclutate, tra virgolette, direttamente dagli autori e dalle autrici. Questo è il caso appunto di Caterina Dezzini, che è stata premiata appunto nel dicembre del 2017. Il titolo era molto interessante, si prestava ad una conferenza, quindi anche a un incontro più divulgativo, senza entrare troppo nello specifico, nello scientifico, ma che sicuramente riguarda tutti noi. Il territorio è costellato appunto da masi ed è interessante avere questa occasione per capire come funziona questo istituto così particolare del nostro territorio, da una voce esperta che lo ha studiato sotto vari punti di vista, nonché addirittura appunto giuridico. Abbiamo, come di consueto, nell'ambito di queste conferenze dedicate alla ricerca in Alto Adige, un accompagnatore o un'accompagnatrice che chiamiamo padrino. Ecco, questa sera si è presentato, e siamo molto contenti di questo, il collega, amico Luigi Spagnoli, che lavora appunto in provincia, è un dirigente della provincia, ma che è stato anche sindaco di Bolzano e conosce perfettamente il nostro territorio nei vari aspetti particolari, come può essere anche appunto l'istituto del Maso Chiuso. Non mi dilungo, la tesi è consultabile qui in biblioteca e siamo contenti di avervi con noi. Tornate a visitare la nostra struttura, che è al piano di sotto, al piano terra, e organizzerà anche quest'anno il premio Claudio Augusta, per cui chi avesse conoscenze di persone o chi stesse così preparando una tesi di laurea di interesse locale, lo aspettiamo per il prossimo premio. Grazie. Ecco Caterina e Gigi, a voi la parola. Buonasera a tutti, vorrei ringraziarvi di essere venuti. Vorrei innanzitutto ringraziare la biblioteca Claudia Augusta di avermi dato la possibilità di presentare la mia tesi di laurea, e vorrei ringraziare inoltre il dottor Spagnoli, che nella seconda parte della presentazione ci parlerà dei vantaggi dell'Istituto Masale per la collettività umana, per l'agricoltura e anche per il territorio altoatesino. Prima di iniziare con la presentazione e introdurvi nella tematica, vorrei spendere qualche parola sulla mia persona e soffermarmi brevemente sulle motivazioni che mi hanno spinto a scegliere questo tema di tesi di laurea. Nel 2013 ho sostenuto un tirocinio al Parlamento europeo a Bruxelles e Strasburgo dal deputato Herbert Dorfmann, e nello stesso anno ho partecipato ad un soggiorno di studio a Bruxelles organizzato dal MIDAS, che è l'associazione europea dei newspaper in lingue regionali e di minoranza, e nel 2016 mi sono laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di Trento, e in seguito ho iniziato la pratica forense presso uno studio legale a Bolzano, e contemporaneamente ho frequentato la scuola forense a Bolzano. Nel 2017 ho partecipato al Borregio Summer School sulle istituzioni politiche europee, organizzato dalla rappresentanza della regione Trentino, Alto Adige e Tirolo. E alla conclusione della pratica forense, lo scorso dicembre ho sostenuto la prova scritta dell'esame di avvocato e da febbraio sto lavorando nel reparto compliance e antiriciclaggio della Cassa Centrale Raiffeisen, Alto Adige. E per quanto riguarda la scelta della tematica del maso chiuso per la tesi di laurea, la scelta è scaturita da motivazioni di carattere personale, riconducibili alla mia provenienza da una famiglia che da decenni è attiva nell'agricoltura e i miei genitori gestiscono un'azienda agricola di frutti e viticoltura. E sì, per questi motivi ho pensato di elaborare la tesi di laurea su questo importante istituto giuridico per il territorio altoatesino. Allora, come prima definizione, l'istituto giuridico del maso chiuso può definirsi un regime vincolistico della terra, in quanto il maso chiuso è un'azienda agricola che è composta da terreni agricoli e mobili che formano un tutt'uno. E tra questi mobili ci sono fondi rustici per la coltivazione e per l'allevamento degli animali, nonché eventualmente aree boschive, e in più gli immobili come la casa di abitazione, fabbricati rurali e i diritti connessi a tali immobili. Questi immobili formano un tutt'uno, un'unità agricola indivisibile che alla morte del proprietario del maso chiuso deve passare necessariamente ad un unico soggetto assuntore e non può essere suddiviso tra i diversi coeredi. Ciò vuol dire che mentre il soggetto che continua a gestire il maso chiuso deve compensare gli altri eventuali coeredi che si vedono privati dalla possibilità di poter partecipare in futuro alla distribuzione dei frutti realizzati, e perché si vedono privati anche della possibilità di acquistare la proprietà terriera di questi immobili. L'assuntore invece deve compensare gli altri coeredi pagando un indennizzo che attualmente è stabilito secondo il reddito annuo netto stimato del maso chiuso, secondo la coltivazione degli usi locali in cui si trova il maso chiuso. Quindi la caratteristica fondamentale del maso chiuso è l'indivisibilità, sia per successione mortis causa ma anche per atti tra vivi. Ciò vuol dire che il proprietario del maso chiuso è limitato nella sua possibilità di disporre dei terreni e immobili formanti il maso chiuso stesso. Lo scopo fondamentale di questo regime vincolistico degli immobili è quello di preservare l'azienda agricola al proprietario come coltivatore diretto, in modo da consentire che l'agricoltore stesso, quindi il proprietario del maso chiuso, ma anche la sua famiglia che assieme a lui risiede stabilmente nel maso chiuso, è in grado di svolgere con il proprio lavoro sul maso di realizzare un reddito sufficiente per il mantenimento della famiglia stessa. Il regime del Maso chiuso, o diciamo l'istituto del Maso chiuso, ha una lunga tradizione nel territorio altoatesino e risale soprattutto al diritto consuetudinario germanico, perché era inizialmente conosciuto soprattutto nei territori di lingua tedesca dell'Europa, dove la proprietà fondiaria non era vista come un comune bene commerciabile che può essere venduto a piacimento, ma era visto più come bene della collettività o bene della famiglia stessa, che non appartiene al singolo, ma che è invece necessario per soddisfare le esigenze della famiglia stessa. In passato era uso che fosse il figlio maschio primogenito a farsi carico dell'eredità, mentre in alcune zone di area tedesca si vedeva dalla prassi dei tribunali che era spesso il figlio maschio minore a vedersi attribuito il maso chiuso, perché era il più bisognoso di ricevere i beni ereditari. In seguito alla Prima Guerra Mondiale, i territori dal Brennero a Solorno, con il passaggio quindi dei territori dall'Austria all'Italia, la legge tirolese riguardante l'istituto giuridico del Maso chiuso inizialmente rimase in vigore e la popolazione altoatesina rimase fedele alle regole riguardanti questo istituto. Nel 1928 e 29 si estese la legislazione civile italiana anche ai territori altoatesini e però con la Seconda Guerra Mondiale la condizione economica e sociale in Italia era instabile a causa della svalutazione della lira. Molti eredi preferivano di essere liquidati invece in denaro, di vedersi attribuito un appezzamento di terreno, e così si procedeva a parecchie divisioni di masi chiusi e anche altre aziende agricole, e con la progressiva polverizzazione del territorio si venne sempre più avvertita la necessità di reintrodurre il sistema del maso chiuso, e con l'adozione del statuto speciale del Trentino Alto Adige nel 1948 è stato attribuito alla provincia autonoma di Bolzano la potestà legislativa primaria anche in materia di minime unità culturali e ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari. E a seguito dell'adozione dello statuto speciale si iniziò a elaborare un progetto di legge provinciale per introdurre l'istituto masale. E la prima legge provinciale risale al 1954, e negli anni successivi si adottarono anche altre leggi in materia, e attualmente la legge provinciale in vigore che regola l'istituto del Maso chiuso è la legge provinciale del 2001. La legge provinciale del 2001 è la regolamentazione primaria dell'istituto masale, e solo per quegli aspetti che non sono regolati dalla legge provinciale stessa la materia è subordinatamente regolata dalle regole generali del codice civile. Ciò vuol dire che la legge provinciale dei masi chiusi è speciale e prevale dunque sulle regole generali del codice civile, tranne quegli aspetti che non sono regolati appositamente dalla legge provinciale stessa. La legge provinciale definisce il Tommaso Chiuso, un complesso di immobili con essi e i diritti connessi, e specifica l'articolo 2 che per poter parlare di un maso chiuso è necessaria anche una casa di abitazione che è sufficientemente ampia per dare posto sia alla famiglia contadina ma anche ai lavoratori agricoli, nonché eventualmente ai appartamenti o stanze destinati all'agriturismo. Poi la legge provinciale parla anche di un reddito minimo sufficiente al mantenimento di almeno 4 e massimo 12 persone, e quindi il maso chiuso, o meglio l'azienda agricola costituente il maso chiuso, deve essere di produttività economica sufficiente per garantire questo mantenimento della famiglia. Da ciò discende che nella legge provinciale dei masi chiusi non c'è un riferimento assoluto di superficie minima che deve essere data per poter parlare di un maso chiuso, ma di questa produttività. Però poi, per quanto riguarda la costituzione di un nuovo maso chiuso, è richiesta sì una dimensione minima di 4 ettari di frutteto o vigneto, ovvero di 6 ettari di prato arativo, ovvero di 2 ettari di vigneto e frutteto se si tratta di un giovane agricoltore di età inferiore ai 40 anni. Come abbiamo detto, l'unico assoltore deve indennizzare gli altri soggetti, quindi gli altri coeredi, e questo indennizzo può essere stabilito liberamente o dal proprietario originario del maso chiuso, che trasmette all'azienda agricola per atto tra vivi, sia con contratto o con un contratto di donazione, o può essere stabilito dal defunto direttamente nella scheda testamentaria. Se però questo prezzo di assunzione è stato stabilito, deve essere calcolato secondo il reddito medio annuo netto o è stabilito direttamente dal giudice in un contenzioso se non si addiviene ad un accordo. Altra caratteristica importante è che tutti gli immobili formanti il maso chiuso sono iscritti nel libro fondiario, nella prima sezione, dove sono iscritti unicamente i terreni e immobili formanti un maso chiuso, mentre gli altri immobili che non appartengono ad un maso chiuso sono iscritti nella sezione seconda. Con descrizione nel libro fondiario, il maso chiuso riceve riconoscimento giuridico e si tratta dunque di un requisito formale. Inseparabilmente connesso con l'istituto del maso chiuso sono anche gli organi della commissione provinciale dei masi chiusi e le commissioni locali per i masi chiusi, che sono organi della pubblica amministrazione che decidono su ogni aspetto e questione riguardanti i masi chiusi stesso. Ciò vuol dire che ogni qualvolta si vuole costituire ex novo un maso chiuso o quando si vuole procedere alla modificazione della consistenza di un maso chiuso consistente in un distacco o ampliamento, è bisogno adire la commissione locale per i masi chiusi. Per poter procedere all'ampliamento di un maso chiuso è bisognoso presentare un'istanza alla commissione locale per i masi chiusi, che può decidere in ordine alla possibilità di aggregare al maso chiuso già esistente altri appezzamenti come altri terreni o immobili agli altri terreni già formanti il maso chiuso. Questo può avvenire se con l'ampliamento, quindi con l'aggregazione, non si supera il reddito massimo di mantenere 12 persone. È possibile anche procedere all'unione di due o più masi chiusi. Ciò è possibile però soltanto per l'arrotondamento fondiario e per garantire una migliore conduzione dei masi chiusi stessi, e pur sempre senza superare il reddito massimo. Poi invece di ampliamento è possibile anche staccare un terreno o una parte del maso chiuso, ciò però sul presupposto di aggregare un terreno equivalente al maso chiuso. È possibile però anche un distacco di un appezzamento del maso chiuso senza aggregare un altro fondo rustico. Ciò è possibile però soltanto per gravi motivi di natura agricola o per altri motivi di interesse economico sociale. Un distacco può essere ordinato dalla commissione locale per i masi chiusi anche per motivi o interesse pubblico, e in questo caso il distacco può essere ordinato anche indipendentemente dall'aggregazione di altrettanti terreni equivalenti e senza dover tenere conto del reddito residuo del maso chiuso. Poi un altro aspetto trattato dalla legge provinciale del maso chiuso è lo svincolo del maso chiuso, che vuol dire che quando viene meno uno degli requisiti essenziali per poter parlare di un maso chiuso, il maso chiuso, o meglio gli immobili e i terreni, perdono la qualifica di maso chiuso, e comporta che anche tutti gli immobili restanti che sono iscritti nella sezione prima del libro fondiario devono essere successivamente trascritti nella seconda sezione, dove sono iscritti tutti gli altri immobili. Lo svincolo del maso chiuso avviene quando il reddito medio non è più idoneo a garantire il mantenimento della famiglia contadina composta di almeno 4 persone. Può avvenire anche perché la produttività del maso chiuso scende al di sotto delle soglie minime, perché i terreni non sono abbastanza e sufficienti. E tutte queste decisioni spettano in primo luogo alla commissione locale per i masi chiusi, che è l'organo di prima istanza, e l'organo di revisione è invece la commissione provinciale per i masi chiusi. Come ho già accennato, il maso chiuso deve rimanere nella sua struttura intatta sia per atti tra vivi sia in caso di successione mortis causa. Quindi il proprietario può decidere ancora in vita di trasmettere l'intera azienda agricola all'assuntore da lui scelto. Questo può avvenire sia con un contratto o mediante donazione. e in questi casi si parla di un contratto Hofübergabevertrag, in quanto l'assuntore succede al proprietario originario stipulando un contratto e accordandosi sul prezzo di assunzione. Se invece il proprietario originario muore senza lasciare un testamento in cui decide in ordine all'assuntore al prezzo di assunzione, opera la successione legittima, in quanto primariamente non è più soltanto il maschio primogenito a potersi vedere attribuito la proprietà masale, ma generalmente i discendenti e loro figli, compreso anche i figli adottivi. E anche il coniuge superstite è considerato erede legittimo, e a coloro spetta anche un diritto di mantenimento e di abitazione sul maso chiuso, se del caso non fossero loro gli assuntori. Se fra più coeredi sono tutti chiamati a succedere, operano dei requisiti, o meglio un ordine di preferenza stabilita all'articolo 14 della legge sui masi chiusi, secondo la quale tra più chiamati a succedere è da preferire colui che è cresciuto nel maso chiuso o che abita ancora sul maso chiuso. Se più chiamati sono tutti cresciuti nel maso chiuso, è da preferire colui che abitualmente partecipa alla coltivazione del maso chiuso e cioè che lavora come agricoltore sul maso chiuso. Se tra questi sono più che lavorano abitualmente sul maso chiuso, è da preferire invece colui che sia professionalmente più qualificato, che è in possesso di un diploma di scuola ad indirizzo forestale agricolo. Se il proprietario originario non ha disposto in vita della trasmissione dell'azienda agricola e se non è neanche presente un testamento che decide in ordine a questo caso, o se i chiamati a succedere non addivengono ad un accordo tra di loro sul futuro del maso chiuso, è necessario dire il giudice ordinario che decide secondo l'ordine di preferenza della legge provinciale sui masi chiusi. Però prima di poter adire il giudice ordinario è necessario esperire un tentativo di conciliazione e solo dopo aver esperito questo tentativo è possibile adire il giudice. Il giudice è giudice del rito di lavoro e decide sia in ordine alla scelta dell'assuntore tra i coeredi e anche per quanto riguarda la determinazione del prezzo di assunzione. Beh, direi che è stato... Funziona? Sto prendo l'altro. Direi che è stata sicuramente una illustrazione esaustiva. C'è un passaggio però che la nostra laureata, che ormai ha superato l'esame di laurea, ha omesso, e cioè che cosa succede di fatto quando passa nell'interno a naso chiuso, cioè ci sono più fratelli. Uno riceve, è l'assuntore che riceve il maso, ipotizziamo ci sia un maso che vale 1 milione di euro. E uno riceve il 1 milione di euro perché il maso rimane tutto intero e gli altri vengono liquidati con somme molto inferiori, giusto? E questa è la ragione per cui le somme inferiori sono date sostanzialmente dal reddito annuo, mi corregga la laureata, dal reddito annuo del maso diviso per gli eredi. Quindi in sostanza se un maso vale 1 milione di euro e produce un reddito annuo di 50.000 euro e gli eredi sono 3, uno prende il maso, prende il 1 milione, gli altri due prendono 25.000 euro. C'è una evidente disparità di trattamento tra gli eredi rispetto a quelli che sono i principi del diritto ereditario italiano. Ma però questo consente di conservare una minima unità culturale con annesso edificio funzionale per l'azienda agricola, che è il presupposto per la conservazione di una struttura rurale come quella che abbiamo noi in Alto Adige oggi. Infatti l'Alto Adige oggi vanta una situazione per cui c'è ancora una presenza di oltre 10.000 aziende agricole, c'è una presenza di oltre 10.000 vasi chiusi, più aziende agricole che non sono vasi chiusi, perché ci sono anche aziende agricole che non sono vasi chiusi in Alto Adige. Ma poi c'è una manodopera destinata all'agricoltura in Alto Adige che è ancora sopra il 4% della manodopera totale attiva, mentre invece nel resto delle Alpi siamo scesi sotto l'1%. E questo è un dato di fatto importante, cioè significa che da noi si riesce a far lavorare in agricoltura una fetta di popolazione molto maggiore. Questo ci consente di valorizzare il territorio e di trarne dei frutti in misura molto più articolata e ridistribuita. Questa della ridistribuzione è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, perché noi siamo stati un po' fregati a scuola quando abbiamo studiato, perché la scuola nazionale è portata naturalmente a valorizzare il percorso storico della popolazione che è vissuta nel territorio dello Stato-Nazione, e quindi si tende in Italia a dire che l'Italia è la patria del diritto, anzi ha esportato fin dal tempo dell'impero romano i principi sacri del diritto romano in giro per il mondo. Certamente è stato così, ma questo non significa che nel mondo erano tutti barbari che non capivano nulla e che erano lì che aspettavano di abbeverarsi alla fonte del sapere romano. Non è così. C'erano in giro per il mondo già al tempo dei romani consuetudini, usi e diritti sanciti assolutamente degni di essere considerati. Ricordo una cosa, un passaggio Tacito, che è vissuto nel primo secolo d.C., nella sua opera dedicata ai Germani, che era, se non erro, de origine Situp Germanorum, dice una cosa carina. Dice che, ma i Germani, ragazzi, i Germani sono gente strana, loro preferiscono le monete d'argento alle monete d'oro. E perché preferiscono le monete d'argento alle monete d'oro? Perché le monete d'argento sono molte di più, e quindi usando le monete d'argento tutti ne hanno in tasca qualcuna, e invece le monete d'oro sono poche e si concentrano nelle mani dei ricchi, per cui nel sistema romano la ricchezza era concentrata nelle mani di pochi, e poi c'era una grande fetta di popolazione che viveva praticamente sulle spalle dei ricchi. Già allora l'impostazione sociale delle popolazioni che vivevano a nord delle Alpi era un'impostazione che tendeva a valorizzare i singoli in misura maggiore di quanto non succedesse a sud delle Alpi. Io non sto a farmi una questione di merito, non è che ci sia qualcuno che è più bravo, qualcuno che è meno bravo, era così, ma questo è interessante come base di partenza per capire come quando cade l'impero romano e arrivano i baiovari nel nostro territorio, i baiovari importano una certa impostazione di gestione del patrimonio fondiario impostata su questo concetto della minima unità culturale. La minima unità culturale, l'abbiamo studiata tutti a scuola, corrisponde a quella dimensione dell'azienda agricola che consente la sopravvivenza di una famiglia. Quindi in sostanza è abbastanza affine come concetto al concetto di meso chiuso. Peccato che la minima unità culturale presente nel codice civile con l'articolo 846 viene abolita. Per cui in Italia, siccome la minima unità culturale presupponeva dei problemi tecnici nel ridistribuire la ricchezza in occasione della mortis causa, in occasione della morte del proprietario, e questo alla fine ha portato, piuttosto che garantire la coltivabilità del terreno, noi garantiamo invece la ridistribuzione dei beni nel momento dell'eredità, e quindi pace all'anima sua, alla minima unità culturale è andata perduta. E questo però ci ha portato ad avere spezzettamenti del territorio, alla polverizzazione della proprietà. Pensiamo solo al vicino Trentino, che non ha adottato il principio del maso chiuso, e che, se voi andate a vedere in valli anche di per sé abbastanza ricche oggi, che si erano molto impoverite però negli ultimi due secoli, tipo la Valsugana oppure le valli giudicarie, ci sono appezzamenti che hanno 50-100 proprietari diversi riconosciuti. Perché? Perché poi in seguito all'eredità è funzionato così, e quindi sono terreni sostanzialmente abbandonati che diventano, tornano ad avere un proprietario unico solo in occasione della loro destinazione a essere edificati. Però come è possibile? Non è, il terreno non può essere tutto destinato a essere edificato, anzi la valenza, soprattutto in un territorio montano come il nostro, delle aree è data soprattutto dal fatto che c'è un equilibrio molto forte tra aree edificate e aree non edificate, dove la prevalenza sono aree non edificate. Ecco, vedete che quindi siamo arrivati a dimostrare con delle considerazioni semplici come l'istituto del vaso chiuso da noi ci ha consentito di mantenere una certa struttura sociale, una struttura sociale che porta a due vantaggi a mio avviso fondamentali. Il primo, l'abbiamo già in parte accennato, è quello di una maggiore custodia del territorio. L'avente titolo a esercitare un diritto su una porzione relativamente piccola del territorio ha un interesse suo rispetto a quel territorio, conservarlo com'è, e quindi ovviamente lotterà, combatterà contro tutti coloro che cercheranno di farne un altro uso. Se posso usare un paragone ardito, però attualissimo, visto che voi sapete io sono purtroppo associato negli ultimi tempi, purtroppo per me, a un animale che può essere a taluni simpatico, a altri no, che è il lupo. Però pochi sanno che i lupi, per esempio, sono animali estremamente territoriali. Il branco di lupi vive in un territorio che si è scelto, e il branco di lupi quel territorio se lo difende con le unghie e con i denti nei confronti di chiunque ci entri, non esseri umani, perché gli esseri umani non gli interessano, né dal punto di vista alimentare né da altri punti di vista, perché non gli danno fastidio. Ma se un altro lupo prova, o anche un altro predatore, un orso, una lince, prova a invadere il territorio dei lupi, i lupi se lo massacrano, perché questo è il territorio mio. Un po' è lo stesso concetto, ovviamente con tutti i dovuti distinguo, del maso chiuso. Non vorrei qui arrivare a una definizione filosofica dell'homo homini lupus, che non è questo il senso del ragionamento che stavo facendo. Però è importante che ci sia in ogni lontano appezzamento del nostro territorio qualcuno che, avendo un diritto esercitato lì, ha interesse che quell'appezzamento rimanga in buono stato rispetto a tutto il territorio circostante. Ma poi c'è un altro aspetto, e l'altro aspetto secondo me importante è appunto la suddivisione della ricchezza. L'avere tanti aventi titolo rispetto a quello che succede per esempio in alcune zone del meridione d'Italia e in tante zone d'Europa, dove impera invece il latifondo, dove ci sono le grandi proprietà terriere da centinaia, migliaia di ettari, fa sì che da noi ci sia un'attenzione molto più certosina e una crescita di sensibilità personale di coloro che fanno parte di questa società di proprietari terrieri, per essere attivi, proattivi, per avere una base culturale adeguata per svolgere questa funzione. Mentre invece nei territori dove prevale il latifondo, la gran parte dei coltivatori non ha interesse ad evolversi, non ha interesse ad imparare nuove tecniche culturali, non ha interesse a far rendere di più il territorio, perché tanto chi ci guadagna è sempre il latifondista, non sono io, è qualcun altro. E questo chiaramente porta che nel nostro territorio c'è uno slancio verso l'innovazione diverso. Non significa che noi siamo sempre più bravi e che altrove sono sempre meno bravi, non è assolutamente vero, ci sono assolutamente delle realtà eccellenti al di fuori dei sistemi latifondiari e ce ne sono anche qui di situazioni dove invece questo slancio innovativo non è proprio così marcato, però questo è un po' quello che succede e è molto importante che venga diffuso il messaggio che la dottoressa De Zini ha concentrato in questo suo lavoro, che ha il pregio di essere anche molto sintetico e molto chiaro, perché questo tipo di messaggio non è presente nel patrimonio culturale, men che meno italiano, ma neanche del nostro territorio. La popolazione urbana altoatesina, in particolare di lingua italiana, ma mi sento di dire anche di lingua tedesca, non è tutta perfettamente a corrente di come funziona questo meccanismo e non è a corrente soprattutto del fatto che porta a dei vantaggi che ho provato a illustrarvi. Io vi ringrazio dell'attenzione e ovviamente siamo disponibili, credo, se ci sono delle richieste di approfondimento. Io mi ricordo, per colpa dell'anagrafe, ancora i mercati di Salentino o di Stegona di Brunico, dove vedevo i fratelli delle rete di un maso chiuso che si presentava col cucchiaio dentro lo stivale perché si offriva a fare il servo agricolo. Perciò questa liquidazione, che ho capito, credo di aver capito bene solo adesso, in base al valore o al reddito del maso, è molto importante perché la differenza è enorme. Uno eredita un capitale relativamente grande, però il reddito può essere proprio minimo. E come fa a sopravvivere se non facendo il servo il fratello che resta fuori da questa eredità? La dottoressa l'ha detto, Sì, no, allora in passato era spesso così che l'indirizzo era soltanto una somma simbolica e non c'erano dei riferimenti legislativi che stabilivano come calcolare questo indirizzo. Però attualmente nella legge provinciale del 2001 e anche prima delle versioni precedenti il prezzo viene calcolato secondo il reddito medio annuo stimato di produttività del maso chiuso e quindi non secondo il valore di mercato, e questo prezzo, che quindi normalmente va pagato, è inferiore del 6 o 7 del valore di mercato, quindi quello che si riceve se il maso chiuso, gli immobili sarebbero dei comuni immobili commerciabili. Però c'è un altro aspetto, se posso, e la dottoressa anche l'ha detto, c'è un diritto sancito per i coeredi a rimanere ad abitare nel maso. Quindi in realtà il figlio cadetto che non eredita il maso chiuso potrebbe rimanere a lavorare nel maso. Il problema è che, come sappiamo, nelle famiglie non sempre si va d'accordo e allora può succedere che qualche figlio cadetto non è contento di avere il suo fratello che gli dà gli ordini sul lavoro e quindi decide di offrirsi come servo agricolo a qualcun altro, perché dice tanto perso per perso, almeno non mi faccio comandare dal fratello ma mi faccio comandare da un estraneo. Sono relativamente recenti questi migliorie, queste sistemazioni. Una volta di fatto le famiglie rimanevano unite con la legge del 2001, così, se no prima fino a pochi decenni prima era ancora un pochino... Le famiglie rimanevano unite, ricordiamo anche che il numero dei figli fino agli anni 50-60 era estremamente maggiore di oggi, cioè nelle famiglie contadine altoatesine nascevano abitualmente più di 10 bambini, ed è evidente che al di là della purtroppo presente mortalità infantile, però alcuni di questi andavano a cercarsi una nuova vita altrove, qualcuno rimaneva a lavorare nel vaso, e quindi non per niente la dottoressa parlava di 12 persone. 12 persone significa tante, ma che sono proprio pochissime che rimangono nel vaso. Sì, ma bisogna tener conto anche che oggi è molto frequente che il vaso chiuso viene trasmesso già quando il proprietario è ancora in vita, e così lui e sua moglie sicuramente rimane il vaso chiuso, e poi se ci sono figli minori anche quelli hanno diritto di rimanere sul vaso chiuso fino al raggiungimento della maggiore età, e poi anche dopo, se non hanno reddito adeguato per mantenersi da solo, hanno sempre diritto di rimanere lì e di essere mantenuti dall'assuntore del vaso chiuso. C'è un aspetto curioso nel vaso chiuso, anche come regolamentato in provincia di Bolzano, che è quello che c'era questo elemento patriarcale fino al 2001, che tu, Catalina, non hai menzionato, ma sicuramente l'hai approfondito all'interno del tuo lavoro, della tua tesi di laurea, e cioè che fino al 2001 la precedenza nell'eredità spettava solo ai figli maschi, e poi giustamente le figlie hanno protestato e hanno contestato questo istituto, perché non compatibile con la Costituzione, e quindi è stato tolto. Forse potresti aggiungere se questo ha avuto anche degli effetti, che effettivamente oggi ci sono vari diritti fra i generi nel vaso chiuso, nel funzionamento del vaso chiuso. Sì, infatti, come ha detto lei, era veramente così, che soprattutto in passato, anche nel diritto consuetudinario germanico e poi anche fino agli anni di 1945, fino alla riforma del diritto di famiglia italiano, era così che potevano essere soltanto i figli maschi ad assumere il vaso chiuso in proprietà, e solo con la riforma del diritto di famiglia si estese il diritto di succedere nella proprietà del vaso chiuso anche alle femmine. Quindi in teoria e sulla carta c'è una perfetta equiparazione fra donna e uomo per quanto riguarda la successione nel vaso chiuso, però in occasione dell'elaborazione della tesi di laurea ho potuto anche fare un'intervista con il dottor Maier Dio, che è anche componente della commissione locale per i vasi chiusi, che mi ha detto che la realtà è tutta un'altra cosa, perché anche ai giorni di oggi è molto più spesso che sia un uomo a succedere e ad assumere il vaso chiuso, ciò soprattutto per considerazioni di natura semplice, perché un maschio viene tuttora considerato più abile, più adeguato fisicamente a gestire un vaso chiuso, e come abbiamo sentito non solo in passato ma anche adesso l'idea del regime del vaso chiuso è quello di preservare l'azienda agricola formata in vaso chiuso e di preservarla al coltivatore diretto. E quindi anche oggi è spesso così che sia un uomo, quindi un maschio, ad essere preferito rispetto alle donne ad assumere o di essere scelto come assuntore del vaso chiuso. chiuso, ma sì, la famiglia o diciamo il proprietario del maso chiuso è sempre libero di scegliersi l'assuntore e quindi anche libero di trasmettere il maso chiuso alla figlia. Salvo ovviamente che non muoia prima di aver deciso, e questo potrebbe essere un problema, perché allora si innesca un meccanismo di litigiosità, ovviamente di scontro tra gli eredi per vedere chi ha titolo, no? Questo è stato un fatto che si è verificato proprio a Bolzano immediatamente dopo che è entrata in vigore la norma che consentiva anche alle donne di diventare eredi, e su un caso abbastanza di scuola, perché fu una causa che durò anni e alla fine venne ovviamente deciso dal giudice che l'erede era la donna, che in un primo tempo non era stata individuata dal meccanismo ereditario come erede, e questo portò però a una situazione che io non avrei voluto, di cui non avrei mai voluto essere partecipe, perché immaginatevi una famiglia dove ci sono due fratelli che per 10 anni litigano per la gestione di un maso, e poi alla fine quello che per quei 10 anni l'ha portato avanti non lo può più portare avanti, ma perché lo deve lasciare alla sorella. Dopodiché non entro nel merito, ovviamente era giusto così, ma dal punto di vista della gestione dell'azienda sicuramente non è stata la cosa migliore questo litigio qua. Ma io brevemente un'aggiunta la farei, nel senso che la sfida in questo momento probabilmente non è tanto legata al fatto dell'eredità, a chi assegnare l'eredità, perché ci sono comunque delle donne che hanno ricevuto l'eredità a masi chiusi, anche se sono una larga minoranza. Credo che la sfida d'ora in poi sarà legata al fatto che si evolve il sistema di gestione dell'agricoltura. L'agricoltura si sta sempre più specializzando, ci sono attività specialistiche che il singolo gestore dell'azienda agricola delega a qualche altro perché non è in grado di farlo lui, e in compenso succede sempre più spesso che nell'ambito dell'azienda agricola un membro della famiglia o il papà o la mamma magari va a fare anche un lavoro terzo esterno, e quindi l'azienda agricola diventa più frammista con il tessuto socio-economico che la circonda, e questa è una situazione con la quale l'Istituto del Maso Chiuso non ha ancora fatto i conti. Non ha ancora fatto i conti, ma ci sono situazioni, per esempio qui nei pressi di Bolzano, di un maso chiuso che io conosco, che si trova in una posizione un po' disagiata e scomoda, e allora il maso chiuso rimane, c'è un titolare del maso chiuso, la terra viene coltivata, ma la casa non viene abitata perché la famiglia gli è più comodo stare in città, da dove la moglie che lavora in un'azienda terza più rapidamente arriva al posto di lavoro, perché sennò ci metterebbe molto più tempo. Ecco, queste situazioni qua sono situazioni che si verificano e che alterano un po' la struttura storica dei masi chiusi. Bisognerà che ci si metta mano anche dal punto di vista normativo, perché se è vero che il maso chiuso per esistere deve presupporre la casa, però dovrebbe anche presupporre, a mio avviso, che la casa sia abitata e non che la casa sia lasciata perché per altri interessi la famiglia se ne sta altrove. Però al di là di questo, io non è che voglio, non ho niente contro quella famiglia lì, dico che c'è alcuni principi che probabilmente dovranno essere adeguati all'evoluzione della società. Tutto qua, non mi annoio più. Grazie allora.